State ascoltando Radio Isvara. Radio Isvara vi invita all'ascolto di Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Ricevo un messaggio da parte di Batta Roberto su Facebook in privato, in italiano, e leggo il messaggio e poi rispondo. Hare Krishna Manunat Das, tutte le glorie a Srila Prabhupada. Ti prego di accogliere i miei più sinceri e umili omaggi. Ti pongo due domande che concernono la recita del mantra o dei mantra. Nella vita di tutti i giorni, purtroppo, perché sarebbe meglio farlo in altre condizioni, capita di recitare il mantra anche alla guida di una vettura o in mezzo alla strada. Se mi interrompo durante la recita, è possibile riprendere il giro di 108 recitazioni e completarlo, o è meglio, come penso, riprenderlo dall'inizio? Fermo restando che il mantra è il mantra migliore, quale valenza e storia ha il Gauranga Mantra? È il mantra migliore per rivolgersi a Sri Chaitanya Mahaprabhu? Hare Krishna. Beh, intanto voglio dire, che mi fa molto piacere che cominci a farmi domande di filosofia. È un ottimo segno e con molto piacere ti rispondo a questo. Questo tipo di domande non hanno una risposta sì e no. Non è una di quelle situazioni in cui uno dice sì, è bene questo. Io potrei darti 4, 5, 6 risposte che vanno tutte bene e che sono contraddittorie apparentemente l'uno con l'altra. Potrei dirti che, bene, se tu stai guidando la macchina e devi interrompere il mantra, puoi riprendere da dove hai lasciato, risposta numero uno, o no, è meglio che ricominci da zero. Potrei dirti che, guarda, che cantare mentre guidi la macchina non ha un grande valore. Potrei dirti no, ha un ottimo valore. Potrei dirti no, e tutte queste risposte sono tutte valide, dipende. La contraddizione fra di loro è solamente apparente. E vado a spiegare perché ora. Andiamo a monte, perché c'è un concetto che è alla radice di molte questioni filosofiche, che se uno capisce questo concetto all'inizio, poi gli riesce facile capire la filosofia per conto proprio, oppure quando gli danno risposte diverse, appunto apparentemente contraddittorie, le capisce. Questa è una filosofia che può essere molto semplice o molto complicata. Qual è il concetto alla radice? Il concetto alla radice è che Krishna è una persona. È una persona. Non è una idea, non è una luce, non è un uccello, un piccione, dentro un triangolo, non è una grande luce, è una persona come me e come te. E quindi abbiamo una personalità, abbiamo cose che ci piacciono, cose che non ci piacciono, abbiamo i nostri sentimenti, abbiamo le nostre apprezzazioni, abbiamo la nostra, come dire, la nostra idea su come aiutare gli altri e via dicendo. Faccio un esempio: se tu mi inviti a pranzo, io ti dico guarda, a me piace questo tipo di cibo, e tu ti sforzi di cucinare il tipo di cibo che a me piace, però se per caso non viene esattamente come a me piace, non è che io me la prendo, penso ha fatto, si è sforzato, ha fatto il meglio, quindi io apprezzo ugualmente il servizio reso. Mentre se invece io ti dico guarda, Tutti i italiani sanno che io non mangio cavolfiori e broccoli. Quindi se io ti dico, guarda Roberto, vengo a prendere passata molto volentieri a casa tua, però non mi fare cavolfiori e broccoli, perché in Italia c'è un detto che dice basta il pensiero. Io ti dico, guarda Roberto, no cavolfiori, no broccoli. E tu mi fai i broccoli, me li porti davanti e io ti dico, ma io ti avevo detto che non li mangio, tu non mi puoi dire, ma basta il pensiero. Perché nel mondo dell'amore, nel mondo del sentimento, del voler far piacere agli altri, c'è sì lo sforzo di fare le cose fatte bene, se non vengono bene la persona non se la prende, però c'è anche un modo di farle queste cose bene, cioè basta il pensiero, sì, ma fino a un certo punto bisogna anche sforzarsi di fare le cose come devono, perché questo è la via dell'amore. La via dell'amore è io cerco di fare le cose giuste, se non ci riesco, pazienza, ma io devo cercare di fare le cose giuste. Quindi Krishna è una persona e quando si raffronta a altre persone, lui non dice la stessa cosa a tutti quanti ugualmente, no? Ma dice cose che possono essere capite e applicate da differenti tipi di persone. Per esempio, se io devo insegnare la matematica a un bambino di 6 anni, io gli dirò 2 più 2 fa 4 e se lui una volta mi dice 2 per 2 fa 5, io non me la prendo perché è un bambino di 6 anni, sta cominciando ora e quindi no. Se invece io parlo di matematica a un adulto all'università, a parte che io 2 per 2 fa 4 non glielo dico neanche perché suppongo che già lo sappia, ma sicuramente gli dico cose di più e non tollererei un errore simile, 2 per 2 fa 5, perché non fa 5. Krishna non è nel nostro cuore e apprezza lo sforzo e questo sempre è rapportato alla capacità che la persona ha di applicare i principi della Bhakti. Quindi il maestro spirituale, o meglio l'acharya, le scritture, Krishna stesso, dà dei principi universali che devono essere osservati da tutti, però poi l'applicazione di questi principi universali è il compito del maestro spirituale dire al discepolo questo è il principio assoluto, tu però non sei ancora in grado di farlo, quindi io ti do una maniera graduale per arrivare a quello. Non possiamo però dire no, non mi dire il principio assoluto, che siccome io non sono capace di farlo, poi io perdo l'incoraggiamento, mi disanimo e quindi non faccio niente. Beh, se siamo così allora non siamo sinceri e dobbiamo ancora maturare per cominciare a fare la vita spirituale. Noi dobbiamo ascoltare il principio assoluto e poi chiedere al nostro maestro spirituale che parte, in che maniera io posso arrivare a questo. Quando Srila Prabhupada arrivò in Occidente, lui chiese ai suoi discepoli di cantare 64 giri al giorno. Noi non avevamo soltanto i giri da cantare, dovevamo fondare un movimento, dovevamo mantenere i templi e poi 64 giri al giorno. Anche se non avessimo avuto niente da fare, sarebbe stato ben difficile per noi farlo, perché per nascita siamo molto irrequieti, non siamo come gli indiani, che sono normalmente più pacifici di noi. Eravamo irrequieti, eravamo giovani, avevamo una voglia di fare. E quindi Srila Prabhupada ha detto, va bene, 64 no, però 32, eppure 32, non era tanto facile. E allora Prabhupada ha detto, ok, allora 16 giri, non un giro in meno, non transigo, questo è tutto. Ora noi, quando i discepoli di Prabhupada che danno iniziazioni, io per esempio quando do iniziazione, spiego sempre questo fatto, che il principio regolatore non è cantare 16 giri, cantare 16 giri minimo, perché non è che uno, se ha la possibilità di cantare 17 giri, dice: no, no, no, il mio maestro spirituale mi ha detto che devo cantare 16 giri. Se ne canto 17 è un'offesa. No, perché 16 giri è il minimo. Se uno, noi dovremmo cantare Hare Krishna tutta la vita. Idealmente non dovremmo fare altro. Il fatto è che abbiamo una missione di predicare la coscienza di Krishna, ma idealmente dovremmo stare a recitare il mantra 24 ore al giorno. Quindi 16 giri per i devoti iniziati, questo è il minimo. Ora, se viene una persona e dice: ma io non sono capace di cantare neanche 16 giri, allora non può per il momento prendere iniziazione, però può cantare Hare Krishna. Allora il maestro spirituale gli dice: bene, tu allora non canta le 16 giri, cantane 4, cantane 2, cantane 1, cantane 6, e gradualmente aumenta fino a che un giorno sarai capace di cantare minimo 16 giri, e allora potrai prendere iniziazione e la tua vita spirituale decollerà. Quindi, per rispondere ora direttamente alla tua domanda, una volta che abbiamo stabilito che Krishna è una persona, che esiste un concetto assoluto, però che esistono delle applicazioni relative, andiamo a stabilire il principio assoluto e poi andiamo ad applicarlo nella tua vita. Tu lavori, hai una famiglia, non vivi in un ashram, non vivi in India, non vivi a Vrindavana, quindi è ovvio che il sistema della tua vita ti presenta delle difficoltà oggettive per cantare Hare Krishna e per praticare la devozione in maniera perfetta. E la maniera assolutamente migliore per cantare Hare Krishna è alle 4 della mattina tu ti alzi, fai la doccia, fai almungolarti, che poi ti siedi nella posizione del loto di fronte a un altare e non ti muovi dal tempio, al massimo cammini su e giù come faceva Srila Prabhupada qualche volta, io l'ho visto fare così, e cantare 16 giri tutti quanti la mattina. Va bene? Quando hai finito di cantare i giri, allora cominci a fare qualche cosa, ma fino a che non hai finito tutti i tuoi giri non dovessi fare niente. Questo è il perfetto. Non parlare con la famiglia, non guardare, non pensare ad altro. Questo è quello che dovrebbe essere perfetto. Ora applichiamo nella tua vita. Non ho il piacere di conoscerti così tanto, però da quello che leggo, che mi mandi, i messaggi che ci siamo mandati negli ultimi mesi, capisco che è una vita normale, lavori, quindi quando ti trovi alla guida di una vettura, tu canti Hare Krishna, è chiaro cosa devi fare. Ora, la cosa migliore sarebbe che tu canti i giri tutti quanti al giorno e poi canti altri quando ti capita e come ti capita, non importa. Ma se per caso tu non puoi cantare i giri a casa tua o ne canti pochi, allora va bene in questo caso l'applicazione. Non è l'assoluto, non è la cosa migliore, ma è l'applicazione. Ora, un'applicazione è buona o cattiva? Beh, è buona perché ti aiuta un giorno, però non puoi andare in giro a dire: bene, Manu Mahaprabhu mi ha detto che devo cantare i giri mentre guido la macchina, perché non è così. Quindi tu canti i tuoi giri come puoi, e siccome lo fai con devozione, lo fai con sincerità, questi ti aiuteranno moltissimo e ti faranno avanzare nella vita spirituale. Ora, quando tu cammini, passeggi magari con la famiglia e il bambino, se ne hai, ti chiama e ti dice: tu devi interrompere il canto del mantra, a questo punto cosa fai? Lo riprendi a cantarlo da dove l'ha lasciato o ricominci da capo? Beh, in realtà tutte e due le cose vanno bene, perché questi giri, essendo fatti in una maniera potenzialmente distratta, non hanno esattamente in assoluto un valore di un giro, ma hanno il valore di mantra cantati. Quindi se tu canti il mantra ricominciando dalla pallina numero 1 o dalla pallina numero 40, sei sempre un mantra, perché in assoluto i giri dovrebbero essere cantati in piena concentrazione, senza distrazioni. Quindi diciamo che se dovessi ricominciare da capo ogni volta che ti interrompi mentre guidi la macchina o cammini, probabilmente tu durante il giorno non canterai molti giri, però canterai molti mantra. Dunque, puoi scegliere di fare come meglio preferisci. Bene, adesso per quanto riguarda invece il Goranga Mantra, probabilmente ti stai riferendo al Panchatattva Mahamantra. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa di Gaura Bhaktavrinda. Se ti riferisci a questo Mahamantra, è sicuramente il mantra migliore per glorificare Sri Chaitanya Mahaprabhu, perché recita il nome dei suoi compagni. Sri Chaitanya Mahaprabhu non viene solo, non gli piace essere menzionato solo, anche a Krishna non gli piace. Noi diciamo sempre Shri Krishna perché Shri è Radharani. Quindi anche quando diciamo Chaitanya Mahaprabhu, se noi diciamo Nitai Goranga o Gadai Goranga, Chaitanya Mahaprabhu gli piace essere, a Chaitanya Mahaprabhu piace essere glorificato in compagnia dei suoi devoti. Sicuramente il Panchatattva Mahamantra è la maniera migliore per rivolgersi a Chaitanya Mahaprabhu. Ora, qual è la relazione tra il Mahamantra di Krishna e il Panchatattva Mahamantra? La relazione è che il Mahamantra di Krishna è stato benedetto da Chaitanya Mahaprabhu. È come se lui avesse la chiave, ha aperto la porta, ci ha dato il permesso di cantare Hare Krishna. Nityananda e Goranga ci hanno dato questo permesso. Canta Hare Krishna e non importa se sei qualificato, se non sei qualificato, se sei di nascita alta o bassa, se sei un Brahmana, uno Kshatriya o se sei uno Shudra o un appestato, un fuori casta. Non importa cosa sei e dove sei, canta Hare Krishna. Siccome Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu ci hanno dato il permesso, ci hanno dato la chiave per cantare il Mahamantra, ebbene cantare all'inizio di ogni giro di mantra il Panchatattva Mantra per richiedere il permesso. Beh, il permesso è già stato dato. Diciamo che la recitazione del Mahamantra è un ringraziamento a Sri Chaitanya Mahaprabhu per averci permesso di cantare Hare Krishna. Quindi all'inizio di ogni giro di Mahamantra di Krishna che tu canti, reciti Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa di Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Per acquistare i libri esclusivi di Manonath Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. Nella vostra religione questo viene insegnato già da piccoli, ai bambini per esempio, mentre da noi per dire è diverso, perché da noi è difficile insegnare la religione ai bambini, nel senso che non hanno proprio più voglia di Sì, partecipare a. ma noi cerchiamo di insegnare ai nostri bambini quello che noi crediamo che sia giusto. Chiaramente non c'è nessuna maniera di imporre niente a nessuno. Quando questi crescono sceglieranno quello che vogliono. Le storie del lavaggio di cervello sono delle fandonie, insomma, non esistono. Mio figlio, ad esempio, è nato, adesso ha 27 anni, è nato Hare Krishna, è cresciuto, io l'ho educato in una, come un Hare Krishna, no? Questa è una certa età, a me non mi va più. Pita, Pita significa papà in sanscrito, no? Nostra lingua. Pita, a me non mi va più. Caro figlio, sei sempre mio figlio, vai a fare quello che vuoi. La libertà è importante, però ovviamente noi insegniamo le cose che riteniamo giuste e ci mancherebbe altro. Cioè, ogni genitore è normale che insegna al figlio quello che ritiene sia giusto. Il concetto di giusto, di sbagliato, è chiaro che è soggettivo, però siamo liberi soggettivamente di ritenere la nostra filosofia come giusta. La spiritualità è qualcosa di così profonda che solamente in una società di persone molto superficiali possono pensare che sia possibile un qualsiasi tipo di obbligazione o di lavaggio del cervello, come si chiamava una volta, ormai è caduto in disuso questa espressione antipatica, no? Perché la spiritualità è così profonda che non può essere forzata in nessun modo, perché la spiritualità è qualcosa di così privata, di così interiore, di così profonda, non c'è modo di farla entrare per forza. La si può spiegare, la si può incoraggiare, ma alla fine deve essere sempre la persona a prenderla e a farla propria. Puoi lavare il cervello della gente con cose materiali, con cose superficiali, ma la spiritualità non c'è nessun, impossibile. Questa è un'esperienza di decenni, di secoli che abbiamo avuto. In particolare la coscienza di Krishna, che è un'esperienza spirituale molto profonda, così profonda che talvolta non si capisce dove bisogna andare, no? La gente non capisce cosa è lo spirito, dove è lo spirito. Anche se uno nasce nella nostra tradizione, mio figlio è nato Hare Krishna totale, da un padre Hare Krishna, madre Hare Krishna, che vivevano in un tempio, è nato, la prima faccia che ha visto è stata la mia, poverino, però l'ha vista con il segno vestito, la prima cosa che ha visto è stato un devoto, un Hare Krishna, no? Eppure fa la sua vita, che non in tutto coincide con gli insegnamenti nostri. Avete ascoltato Manunat Prabhu, lezioni e conversazioni. Questa è Radio Isvara. Letture dai libri di Manonath Prabhu. A cura di Ramananda Das e Bhaktin Nadia. Buon ascolto da Radio Isvara. Troppo spesso l'uomo agisce automaticamente, senza riflettere veramente a ciò che fa. Agisce perché crede di dover agire, crede di esserne costretto, perché altrimenti, se non lavoro, come posso mangiare e mantenermi in società? L'uomo è l'unico animale al creato che è riuscito a complicarsi la vita in modo quasi grottesco, sventolando la bandiera di un fantomatico progresso. Nessun animale ha creato un sistema economico così insensato che più si lavora, più diventa complicato persino procacciarsi le necessità primarie della vita, quali il mangiare, il vestirsi e l'avere una dimora per proteggersi dalle intemperie. Aggrovigliato nelle sue stesse reti, l'uomo sta soffrendo. E tutto per cosa? Per stare bene? È giusto soffrire per riuscire un giorno a stare bene? Qualcuno ci è riuscito? No. È raro trovare qualcuno al quale, se si domanda «ma tu ti senti soddisfatto veramente? Ti senti felice?», ti risponda «sì, sono felice». L'esperienza comune è che una risposta simile si ottiene solo in una ripicca, quando durante una discussione uno non si sente di dare soddisfazione all'altro, ammettendo quella che è la cosa più ovvia del mondo, e cioè che nessuno è veramente felice. Definizione di felicità. Domanda. Ciò che dici è giusto solo relativamente. Prima di tutto si dovrebbero definire i termini. Cos'è la felicità? Se la intendiamo come uno stato in cui si canta e si balla in preda a una specie di ebbrezza mentale, certamente no, nessuno può dirsi felice. Ma ci sono momenti in cui l'uomo riesce in ciò per cui ha lottato per tutta una vita, quando riesce a ottenere una solida posizione economica e sociale, quando specialmente nella maturità si riesce a soddisfare meglio i desideri che affollano la nostra mente. Ecco, per noi questa è la felicità. La cultura greca mi dà una mano, infatti basta vedere da dove proviene la parola felicità, e cioè dal greco phio, che significa ciò che è prodotto dai frutti del desiderio. Ciò sta a significare che uno è felice quando ottiene ciò che desidera. Risposta. Dunque si diventa felici quando si ottiene lo scopo per cui si lotta, giusto? Domanda. Esatto. Del resto, se uno è felice con una certa cosa e non con un'altra, perché dovremmo avere qualcosa da ridire? La felicità è un fatto soggettivo, non certamente universale. Non esiste qualcosa che fa felice tutti. Risposta. Ma se la mia felicità dovesse impedire quella degli altri, sarebbe ancora giusta? Se io godo nel far del male agli altri, tutti cercherebbero di impedirmelo, vero? Se così è, la felicità è senz'altro un fatto soggettivo, ma necessariamente deve accordarsi con quella del prossimo, altrimenti si muoverebbe il meccanismo sociale per impedirlo. Domanda. Certamente, ma quelli sono casi limite. È ovvio che la nostra ricerca di felicità e i nostri desideri devono rispettare quelli degli altri. Risposta. Allora non è che sia giusto un certo oggetto di felicità, ma la felicità stessa, perché se uno è felice facendo male agli altri, questa persona dovrebbe essere rispettata per il desiderio che ha di felicità, ma non per l'oggetto in modo specifico. Domanda. Certamente, la felicità deve accordarsi con quella degli altri. Risposta. Dunque, noi dobbiamo trovare una felicità che si accordi sempre con quella degli altri. Ma se noi uomini siamo tutti diversi, come facciamo a trovare un accordo? Ci sono dei popoli che hanno abitudini e modi di vivere completamente diversi, assolutamente incompatibili con il modo di essere di altri. Come facciamo a trovare un equilibrio che vada bene a tutti? Domanda. Per questo ci sono nazioni diverse dove popoli con mentalità diverse possono vivere senza recare disturbo agli altri. Risposta. Le frontiere sono un arrangiamento fatto da noi, non è una situazione naturale. La parola uomo significa più o meno figlio della terra, e questa non ha nazioni, non ha frontiere. Tutti dovrebbero essere liberi di muoversi liberamente. Comunque, anche se è vero che gli uomini sono diversi tra di loro, c'è qualcosa che li accomuna tutti, che ci accomuna tutti, qualcosa che va oltre le differenze. E cosa è questo elemento universale? Non certo qualcosa di fisico, di materiale, di questo mondo esteriore, che è la sorgente di tutte le differenze. Il fatto che ogni uomo si ritenga diverso dall'altro è sempre stata la causa prima di tutte le guerre e di tutti i conflitti, sia fra gli individui, le famiglie o le nazioni. Per acquistare i libri esclusivi di Manonath Prabhu, vai al sito store.ishvara.org. State ascoltando Radio Isvara. Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Hare Krishna. I Vaiasya di Vrindavana. La parola Vaiasya in sanscrito significa coetaneo. Gloria ai Vaiasya di Sri Krishna che dividono con lui l'età, le qualità, i divertimenti, l'abbigliamento e la grazia. Essi hanno l'abitudine di suonare flauti fatti con foglie di palma. Possiedono corni come quelli di Krishna fatti di corno di bufalo e decorati con oro, corallo e pietre preziose come l'Indranila. E sono sempre allegri come lo è Krishna. Che questi gloriosi compagni del Signore ci proteggano sempre. I Vaiasya di Vrindavana sono legati a Krishna da un'amicizia fraterna così profonda che credono a volte di eguagliarlo. Si trova esempio di questo sentimento nelle parole che i Vaiasya dissero a Krishna che sosteneva con la mano sinistra la collina Govardhana. Caro compagno, sono almeno 7 giorni e 7 notti che stai qui senza mai riposarti. Questo ci causa un grande dolore, perché possiamo vedere come sia arduo il compito che ti sei assunto. Secondo il nostro parere non dovresti più sostenere questa collina, ma dovresti farla passare dalla tua mano a quella di Sudama. Noi soffriamo molto nel vederti così, e se tu credi che Sudama sia incapace di sostenere la collina Govardhana, almeno cambia mano, passala sulla tua mano destra, così noi potremo massaggiarti la sinistra. State ascoltando Radio Ishvara. Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com/user/Emanuela Torri. Benvenuti amici nella stanza delle letture spirituali speciali. Continuiamo con il testo scritto da Esil Bhaktivedanta Srila Prabhupada, Swami Prabhupada. Il testo è, come già lo sapete tutti, è Il viaggio alla scoperta del sé, e oggi cercherò di leggerne un bel po' in modo che andiamo avanti con la lettura. Allora, mettiamoci in ascolto e sentiamo cosa ci vuole dire questo importante maestro spirituale. I falsi spiritualisti smascherati. Los Angeles, 30 dicembre 1968, un giornalista del telegiornale della CBC chiede a Srila Prabhupada un commento sui molti guru che sono sorti recentemente nell'ultima parte degli anni 60 e che promettono, fra le altre cose, potenza, influenza, controllo dello stress e la salvezza. Questa intervista libera e disinibita mette sotto accusa molte filosofie e pratiche religiose attuali. Srila Prabhupada dichiara: l'uomo che dice di essere Dio è un mascalzone di prima categoria. Scusatemi un attimo, non capisco che c'è qui. Quindi riprendo. Giornalista. Penso che molti lettori e molta gente negli Stati Uniti siano terribilmente confusi con il gran numero di persone che affermano di essere guru e Dio e che spuntano qua e là in questo paese uno dopo l'altro e affermano che, Srila Prabhupada lo interrompe, io dichiaro che sono tutti degli insensati. Giornalista, io mi chiedo se può elaborare un pochino su questo argomento. Srila Prabhupada, posso dire inoltre che essi sono tutti mascalzoni. Giornalista, per esempio quello famoso che vende i mantra per la meditazione, Srila Prabhupada, quello è un mascalzone numero uno. Lo dico pubblicamente. Potresti spiegare, darmi qualcosa che sostenga questa tua affermazione, perché i nostri lettori, dal suo comportamento, posso capire che è un farabutto numero uno. Io non voglio sapere niente di lui, ma quello che ha fatto rende tutto ovvio. Ma la cosa sorprendente è che gli occidentali dovrebbero essere molto evoluti. Come fanno a rimanere imbrogliati da questi mascalzoni? Beh, penso che la gente stia cercando qualcosa e quando lui arriva... Sì, ma vogliono qualcosa molto a buon mercato. Questo è il loro difetto. Per i nostri discepoli noi non concediamo niente a buon mercato. La nostra prima condizione è il carattere morale. Vedete, finché non segue strettamente i principi morali, noi non lo iniziamo, non gli permettiamo di essere parte della nostra istituzione. E questo cosiddetto guru sta dicendo alla gente: fate quello che volete, dovete solo darmi 35 dollari e io vi darò un mantra. Vedi, la gente vuole essere imbrogliata. E così arrivano molti imbroglioni. La gente non vuole sottoporsi ad alcuna disciplina. Essi hanno soldi e pensano: pagheremo e immediatamente avremo tutto ciò che vogliamo. Paradiso istantaneo. Sì, questa è la loro stoltezza. Il giornalista: io ho la mia opinione a questo riguardo, ma vorrei chiederti perché pensi che i giovani di oggi si volgano sempre più verso le religioni orientali? Srila Prabhupada: perché il nostro modo di vivere materialistico non li soddisfa, il vostro modo, scusate, di vivere materialistico non li soddisfa più, specialmente in America. C'è abbastanza di tutto per il piacere, abbastanza cibo, abbastanza donne, vino, case, abbastanza di ogni cosa. Tuttavia c'è confusione e insoddisfazione, più nel vostro paese che in India, che si dice sia un paese molto povero. Ma in India, nonostante la gente sia molto povera, continua a mantenere l'antica cultura spirituale, perciò la gente là non è disturbata. Ovviamente Srila Prabhupada sta parlando del 1900, questa è stata fatta un'intervista nel 1968, poi ovviamente le cose oggi sono un po' cambiate, siamo nel 2020. Questo significa che il progresso materiale da solo non può dare la soddisfazione. Se la gente vuole veramente soddisfazione, deve dedicarsi alla vita spirituale. Questo potrà rendere tutti felici. Tutta questa gente si trova nell'oscurità, non c'è speranza. Essi non sanno dove stanno andando, non hanno un obiettivo. Ma quando ci si situa a livello spirituale si sa quello che si fa e si sa dove si sta andando. È tutto chiaro? In altre parole, tu pensi che la chiesa di tendenza occidentale sia una sinagoga, una chiesa o qualsiasi altra cosa, abbia fallito nel presente la vita spirituale, diresti che il loro messaggio non è rilevante o hanno forse sbagliato nel presentare il loro messaggio adeguatamente? Prabhupada, prendiamo per esempio la Bibbia. Essa fu enunciata molto tempo fa alla gente primitiva che viveva nel deserto. Questa gente non era molto progredita, perciò a quel tempo, nel Vecchio Testamento, era sufficiente dire: c'è un Dio e Dio ha creato il mondo. Questo è un fatto, ma adesso la gente è scientificamente avanzata e vuole sapere dettagliatamente come ha avuto luogo la creazione, capisci? Sfortunatamente tale spiegazione dettagliata e scientifica nella Bibbia non c'è e la Chiesa non può dare più di questo, perciò la gente non è soddisfatta. Specialmente andare in chiesa in modo ufficiale e offrire preghiere non è molto attraente per essa. Inoltre i cosiddetti leader religiosi non seguono neanche i principi religiosi fondamentali. Per esempio, nel Vecchio Testamento ci sono 10 comandamenti, giusto? E uno dei comandamenti è non uccidere. Ma uccidere è cosa molto diffusa nel mondo cristiano. I leader religiosi approvano i mattatoi e hanno inventato una teoria secondo la quale gli animali non hanno un'anima. Diffama un cane e poi impiccalo. Così, quando noi chiediamo perché commettete queste attività colpevoli di uccidere, i preti rifiutano di discutere l'argomento. Rimangono tutti in silenzio. Questo significa che stanno volutamente disobbedendo ai 10 comandamenti. Dove sono quindi i principi religiosi? È detto chiaramente non uccidere. Perché allora uccidono? Come risponderesti? Stai chiedendo a me? Sì. Beh, non uccidere è ovviamente un'etica senza tempo ed è sempre valida, ma l'uomo non è veramente interessato. Srila Prabhupada, sì, è vero, non sono veramente interessati alla religione, è semplicemente un'ostentazione. Se una persona non segue i principi regolatori, allora dov'è la sua religione? Il giornalista, io non discuto, sono pienamente d'accordo con te, sono completamente d'accordo con te. Non ha alcun senso. Non uccidere? Non avrai altro Dio all'infuori di me? Non desiderare i beni degli altri, onora il padre, la madre, questi sono belli. Non desiderare la donna da altri? Prabhupada, no? Chi sta seguendo questo comandamento? Il giornalista, beh, pochissimi. Srila Prabhupada, e allora come posso dire di essere religiosi? Come possono dire di essere religiosi? E senza religione la società umana diventa una società animale. Va bene, ma permettimi di chiederti questo: in cosa differisce la tua interpretazione dell'etica giudeo-cristiana di base dei 10 comandamenti? Prabhupada, non c'è differenza, ma come ti ho detto, nessuno di loro sta seguendo strettamente i 10 comandamenti. Quindi io semplicemente chiedo, per favore, seguite i comandamenti di Dio. Questo è il mio messaggio. In altre parole, stai chiedendo loro di obbedire a quei principi. Sì, non dico che i cristiani dovrebbero diventare indù. Dico semplicemente, per favore, obbedite ai vostri comandamenti. Vi farò diventare dei cristiani migliori, questa è la mia missione. Non dico, Dio non c'è nella vostra tradizione, Dio c'è solo nella mia. Dico semplicemente, obbedite a Dio. Non dico, dovete accettare che il nome di Dio è Krishna e nessun altro. No, io dico, per favore, obbedite a Dio. Per favore cercate di amare Dio. Mettiamola in questo modo. Se la tua missione è la missione degli etici giudeo-cristiani occidentali, sono uguali, ti chiedo di nuovo, perché i giovani o la gente in generale sono disincantati? Perché stanno cercando di andare verso le religioni orientali se sono la stessa cosa? Perché vanno verso quelle orientali? Chiede questo giornalista Srila Prabhupada e Prabhupada risponde perché il giudaismo e il cristianesimo non insegnano loro in modo pratico. Io sto insegnando loro praticamente. In altre parole, tu stai insegnando loro quello che pensi sia un metodo quotidiano, pratico, per raggiungere l'adempimento dello spirito dell'uomo. L'amore per Dio è insegnato sia nella Bibbia sia nella Bhagavad Gita, ma i religiosi di oggi non stanno veramente insegnando come amare Dio. Io insegno alla gente come amare Dio. Questa è la differenza, perciò i giovani rimangono attratti. Bene, allora il fine è lo stesso, ma è il metodo per arrivarci che è differente, giusto? No, il fine è lo stesso. E anche il metodo è lo stesso, ma i cosiddetti capi religiosi non stanno insegnando alla gente a seguire il metodo. Io sto insegnando loro come seguirlo praticamente. Vorrei chiederti qualcosa riguardo a un argomento che abbiamo molto discusso di recente, il problema più grosso che impedisce agli uomini e alle donne di amare Dio e seguire i 10 comandamenti è, come dire, il problema sessuale. Adesso sto dicendo qualcosa che è ovvio. Ne sappiamo tutti qualcosa. Prabhupada, sì, tutti. Il giornalista. E non c'è niente nella religione o nella cultura occidentale che insegni o aiuti una persona giovane a far fronte a questo difficile problema. Io ci sono passato, tutti ci siamo passati. Ora, nel tuo messaggio, tu dai ai giovani qualcosa che possono seguire. E sì. E se sì, che cosa? Srila Prabhupada, chiedo ai miei discepoli di sposarsi. Non permetto questa assurdità di ragazzi che vivono con la ragazza. No, devi sposarti e vivere come un gentiluomo. Giornalista, permettimi di essere un po' più basilare. Che fare quando si hanno 14, 15 o 16 anni? Srila Prabhupada, noi insegniamo ai nostri ragazzi che come diventare brahmachari, come vivere una vita di celibato, come controllare i sensi. Nella cultura vedica generalmente il matrimonio non avviene finché l'uomo non ha 24-25 anni, la ragazza 16 o 17. E poiché essi sperimentano il piacere della coscienza di Krishna, non sono interessati solo al sesso. Quindi noi non diciamo non frequentate le donne, basta con il sesso, ma regoliamo tutto secondo il principio più elevato della coscienza di Krishna. In questo modo tutto va avanti bene. Giornalista, allora i tuoi discepoli non si mordono le labbra o la lingua e dicono non devo toccarla o toccarlo? C'è qualcosa che sostituisce questo aspetto? Sì. Risponde Prabhupada, un gusto più elevato. Questa è la coscienza di Krishna e funziona. Sto già insegnando a uomini e donne occidentali a controllare il loro impulso sessuale. I miei discepoli che vedi qui sono tutti americani. Essi non sono importati dall'India. Giornalista, una cosa che vorrei sapere è che cosa ne pensi di persone come questo famoso guru che vende mantra, che ha disgustato me e tante altre gente. Mia figlia è rimasta molto coinvolta con quel tipo di storia per un po'. Ora è terribilmente delusa. Srila Prabhupada, la psicologia è che gli occidentali, specialmente i giovani, stanno cercando la vita spirituale. Ora, se qui qualcuno viene da me e dice: Swamiji, dammi l'iniziazione, io dico immediatamente: devi seguire questi 4 principi. Niente carne, gioco d'azzardo, intossicanti e niente sesso illecito. Molti se ne vanno subito. Ma questo venditore di mantra non pone alcuna restrizione. È come un medico che dice: puoi fare tutto quello che vuoi, devi solo prendere la mia medicina e sarai curato. Quel medico sarà molto popolare. Giornalista, sì, ucciderà un sacco di gente, ma piacerà a molti. Srila Prabhupada, sì, ma un vero medico dice: tu non puoi fare questo, non puoi fare quello, non puoi mangiare quest'altro. Questo per la gente è un disturbo, essi vogliono qualcosa davvero a buon mercato, perciò si fanno avanti gli imbroglioni e li imbrogliano. Essi colgono l'opportunità perché la gente vuole essere imbrogliata. Prendiamo la palla al balzo, capisci? Così i mascalzoni dicono alla gente: tu sei Dio, ognuno è Dio, devi solo realizzarlo, lo hai soltanto dimenticato. Prendi questo mantra e diventerai Dio, diventerai potente. Non c'è bisogno di controllare i sensi, puoi bere, puoi fare una vita sessuale senza restrizioni e tutto quello che vuoi. Alla gente piace ciò. Oh, con semplicemente 15 minuti di meditazione diventerò Dio e devo pagare solo $35. Molti uomini, molti milioni di persone saranno pronte a farlo. Per gli americani $35 non sono molto, ma moltiplicati per un milione diventano 35 milioni di dollari. Noi non possiamo millantare in questo modo. Noi diciamo che se una persona vuole veramente la vita spirituale deve seguire le restrizioni. Il comandamento è non uccidere, così io non dirò sì, tu puoi uccidere, l'animale non sente niente, l'animale non ha un'anima. Noi non possiamo millantare in questo modo, capisci? Cose come queste hanno disincantato molti giovani. Allora cerca di aiutarci, per favore, questo è un movimento valido. Aiuterò il tuo paese, aiuterà tutta la società umana, è un movimento genuino. Noi non stiamo millantando o imbrogliando, è autorizzato. Autorizzato da chi? Autorizzato da Krishna, Dio. In India questa filosofia della coscienza di Krishna ha milioni e milioni di seguaci. L'80% della popolazione. Se fai delle domande a qualsiasi indiano ti potrà dire così tante cose sulla coscienza di Krishna. Giornalista, pensi davvero da un punto di vista molto pratico che il tuo movimento possa farcela qui in America? Qui siamo proprio agli albori, no? Quando proprio lui era appena arrivato, perché siamo nel 1968. E Prabhupada risponde, da quello che ho visto ha ottime possibilità, noi non diciamo lascia la tua religione e vieni da noi, noi diciamo perlomeno segui i tuoi principi e poi se lo desideri studia con noi. A volte succede che sebbene gli studenti abbiano già ottenuto il loro dottorato, vanno a studiare in altre università straniere per approfondire gli studi. Perché accade? Perché vogliono più conoscenza. Similmente, qualunque scrittura religiosa si segua può darci l'illuminazione. Ma se trovi di più in questo movimento per la coscienza di Krishna, perché non dovresti accettare? Se sei seriamente intenzionato riguardo a Dio, perché dovresti dire «Ah, oh, io sono cristiano, no, sono ebreo, non posso partecipare ai vostri incontri». Perché dovresti dire «Oh, non posso lasciarvi parlare nella mia chiesa». Se sto parlando di Dio, che obiezioni puoi avere? Giornalista, sono perfettamente d'accordo con te, hai ragione. Srila Prabhupada, questa è la nostra prova, si deve sviluppare amore per Dio. Noi non diciamo che si deve seguire il cristianesimo, l'islamismo, il giudaismo, l'induismo. Noi guardiamo solo se una persona sta sviluppando amore per Dio. Ma essi dicono, chi è Dio? Io sono Dio, capisci? Stanno insegnando a tutti oggigiorno che ognuno è Dio. Giornalista, hai visto dalle foto... Hai visto delle foto di un uomo sorridente con i baffi e il naso schiacciato? Prima di morire egli ha detto di essere Dio. Era Dio? O era un altro mascalzone? Ma non vedi? Questo sta succedendo. Stava facendo propaganda che egli era Dio. Questo significa che la gente non sa che cos'è Dio. Supponiamo che mi presenti da te e ti dica che sono il presidente degli Stati Uniti. Mi accetteresti come tale? No, non credo che lo farei. Srila Prabhupada, questi mascalzoni la gente li accetta come Dio perché non sa cosa è Dio. Questo è il problema. Penso che sia assolutamente assurdo che qualcuno si faccia avanti e dica di essere Dio. Srila Prabhupada, ma chiunque lo accetti come Dio non è meno mascalzone. L'uomo che dice di essere Dio è un mascalzone numero uno, è un imbroglione. Ma anche colui che è imbrogliato è un mascalzone. Egli non sa che cosa è Dio, pensa che Dio sia così a buon mercato, che lo si può trovare al supermercato, come se lo potessimo trovare al supermercato. Naturalmente il concetto occidentale è che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, di conseguenza Dio deve avere un aspetto simile a quello dell'uomo. Srila Prabhupada, avete così tanti scienziati, perché non scoprite qual è veramente l'aspetto di Dio, qual è la sua reale forma? Ma dov'è questo dipartimento? Ci sono così tanti dipartimenti, Dipartimento di ricerche, di tecnologia, ma dov'è quel dipartimento che scopre che cos'è Dio? C'è un simile dipartimento di conoscenza? Il giornalista, è meglio che te lo dica subito, non c'è alcun dipartimento di Dio aperto stasera. Srila Prabhupada, questo è il problema, ma il movimento per la coscienza di Krishna è il dipartimento per conoscere Dio. Se studi con noi, non accetterai qualunque mascalzone come Dio, accetterai solo Dio come Dio. Noi insegniamo che al di là di questa natura materiale c'è un'altra natura. Questa natura materiale è creata e poi distrutta, ma Dio è la sua natura spirituale, ma Dio e la sua natura spirituale sono eterni. Anche noi, vedi, gli esseri viventi, siamo eterni, anche noi, senza inizio né fine. Questo movimento per la coscienza di Krishna sta insegnando come trasferirci in quella natura spirituale eterna, dove Dio risiede. Questa è la ricerca dell'uomo. Sì, è questa. Ognuno sta cercando di essere felice perché questa è la prerogativa dell'essere vivente. Perché per natura esso è destinato ad essere felice, ma non sa dove può essere felice. Sta cercando di trovare la felicità in un luogo dove ci sono quattro condizioni di sofferenza: la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Gli scienziati stanno cercando di essere felici e di rendere gli altri felici. Ma quale scienziato è riuscito ad eliminare la malattia, la vecchiaia, la morte e la rinascita? C'è qualche scienziato che ha avuto successo? Non credo. E allora, perché non pensano? Abbiamo fatto così tanto progresso, ma quale progresso c'è stato in questi quattro ambiti? Nessun progresso. Tuttavia, sono molto orgogliosi del loro progresso nell'educazione e nella tecnologia. Però le quattro fondamentali sofferenze rimangono quelle che sono. Vedi? Gli scienziati possono aver fatto grandi progressi nella medicina, ma c'è qualche rimedio che possa permetterci di dire adesso non c'è più malattia, c'è un tale rimedio? No. E allora qual è il progresso degli scienziati? Piuttosto, le malattie aumentano in così tante nuove forme. Hanno inventato le armi nucleari, ma a che servono? Solo ad uccidere, ma non hanno inventato qualcosa per cui nessuno morirà più. Qualcosa del genere darebbe loro credito, ma la gente muore in ogni istante e gli scienziati hanno solo inventato qualcosa che accelera la loro morte, tutto qui. Che merito è questo? Perciò ancora non c'è soluzione alla morte. Cercano di impedire che ci sia sovrappopolazione, ma qual è la loro soluzione? La popolazione cresce di 100 persone ogni minuto, queste sono le statistiche. Così non c'è soluzione per la nascita e non c'è soluzione per la morte, non c'è soluzione per la malattia e non c'è soluzione per la vecchiaia. Perfino un grande scienziato come il professor Einstein ha dovuto subire la vecchiaia e la morte perché non fu capace, di fermare la vecchiaia? Tutti vorrebbero rimanere giovani, ma qual è il metodo? Agli scienziati non importa risolvere questo problema, perché va oltre le loro capacità. Essi stanno facendo una specie di millanteria, tutto qui. La coscienza di Krishna è la soluzione ed è tutto descritto nella Bhagavad Gita. Dovrebbero cercare di capirla o perlomeno fare un esperimento. Poi noi la leggeremo la Bhagavad Gita, la leggeremo qui, io ho un piccolo libricino dove c'è tutta quanta la Bhagavad Gita e la leggeremo. Il maestro spirituale autentico. Ecco, questa era la foto che non trovavo l'altro giorno, vedete? Questo è il maestro spirituale di Srila Prabhupada, questo si chiama Bhakti Siddhanta Sarasvati. Il maestro spirituale autentico. Il maestro spirituale non dirà mai io sono Dio. Il maestro spirituale dirà: io sono un servitore di Dio. Parlando agli studenti dell'Università di Stoccolma nel settembre del 1973, Srila Prabhupada traccia gli 8 punti fondamentali che, secondo gli insegnamenti vedici, caratterizzano un genuino maestro spirituale e ci danno quindi l'opportunità di distinguere il santo dal ciarlatano, perché comunque il maestro spirituale autentico, l'acharya, è come un santo, no? Infatti, vedete, ci danno l'opportunità di distinguere il santo dal ciarlatano. Per intraprendere la vita spirituale ci vogliono due cose. Come Sri Chaitanya Mahaprabhu ha affermato, è lui, e poi anche questo piccolo libricino che ho ritrovato nella mia biblioteca, tante cose ho ritrovato, e leggeremo anche quello, che è una piccola breve storia di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che abbiamo già letto, che l'ha citato Prabhupada qui in questo testo. Avevo detto che, insomma, penso che ne avrebbe parlato meglio, no? Andando avanti nella lettura. Quindi, per intraprendere la vita spirituale ci vogliono due cose. Come Sri Chaitanya Mahaprabhu ha affermato, è necessaria la misericordia del Signore Supremo e del Maestro spirituale. Gli esseri viventi vagano in tutto l'universo cambiando corpi, trasmigrando da un corpo all'altro, da un luogo all'altro e da un pianeta all'altro. Brahmananda Brahmite, ruotano in questo universo materiale. Questa scienza è sconosciuta agli educatori moderni. Come l'anima spirituale trasmigra da un corpo all'altro e come è trasferito da un pianeta all'altro. Ma noi abbiamo spiegato questo nel nostro libro Viaggio facile verso altri pianeti. Infatti il guru può aiutarci a trasmigrare da questo pianeta direttamente nel cielo spirituale Vaikuntha Loka, dove ci sono innumerevoli pianeti spirituali. Il pianeta più elevato nel cielo spirituale è il pianeta di Krishna, chiamato Goloka Vrindavana. Il movimento per la coscienza di Krishna sta cercando di dare la conoscenza di come una persona può essere direttamente trasferita sul pianeta Goloka Vrindavana, Krishna Loka. Questa è la nostra missione. Qual è la differenza fra questo mondo materiale e il mondo spirituale? La differenza è che, sebbene siamo eterni, nel mondo materiale bisogna cambiare corpo. Ajoni taha shasvato yampura non agnate agnamane sharire. L'anima non muore dopo la distruzione del corpo, ma trasmigra in un altro corpo, che può essere uno degli 8.400.000 specie esistenti. Jalajana va Lakshani. Ci sono 900.000 specie acquatiche, 2 milioni di specie di alberi e piante, 1.100.000 specie di insetti, 1 milione di specie di uccelli e 3 milioni di specie di bestie. Poi si arriva a questa forma di vita umana. Adesso tocca a noi scegliere se essere trasferiti di nuovo da un corpo all'altro nelle specie inferiori di vita, dal ciclo di trasmigrazione, oppure se vogliamo essere trasferiti al cielo spirituale, sul pianeta più elevato, conosciuto come Goloka Vrindavana. Questa è la nostra scelta. Avete ricevuto la forma di vita umana per poter fare questa scelta. Nelle specie inferiori, completamente situati sotto il controllo della natura materiale, ma quando la natura materiale vi dà l'opportunità di ottenere un corpo umano, allora potete scegliere quello che volete fare. Questo è confermato nella Bhagavad Gita. Yanti devavrata devan pirtri yanti pirtri vrataha Bhutani yanti bhuteja yanti mad yajino pimam. Coloro che stanno cercando di essere elevati ai pianeti superiori, Deva Loka, o ai pianeti degli esseri celesti, dove lo standard è la durata della vita, sono molto più elevati, possono adorare gli esseri celesti. O se una persona lo desidera, può essere trasferita a Pritiloka, il pianeta dei fantasmi, o al pianeta dove vive Krishna, Yanti Madhyajino Pimam. Tutto questo dipende dalle vostre attività. Aspettate che sennò è brutta la luce. Così, ok. Dipende dalle vostre attività. Ma il samsara, ruotare, vagare in questo mondo materiale da un corpo all'altro, da un pianeta all'altro, non è consigliato. L'esistenza materiale è chiamata samsara, bhutva bhutva, pralyate. Si nasce in un certo corpo, si vive per un certo tempo, quindi si deve abbandonare questo corpo ed accettarne ancora un altro. Questo è chiamato samsara. Il mondo materiale è paragonato ad un fuoco nella foresta. Da Vanala, come abbiamo sperimentato, nessuno va ad appiccare il fuoco nella foresta. No, ciò nonostante l'incendio avviene. Similmente nessuno in questo mondo materiale vuole essere infelici. Tutti stanno cercando di essere molto felici, eppure tutti sono forzati ad accettare l'infelicità. In questo mondo materiale da tempo immemorabile fino ai giorni nostri ci sono state guerre occasionali, guerre mondiali. Bene, interrompiamo perché quello lì mi sembra che già l'avevamo letto, mi sa che ho saltato una pagina per... scusatemi, ma mi sembrava di averlo già letto. Scusate, No, niente. Abbiamo saltato un pezzo, non capisco come mai. Avevamo già letto. Ah, ecco, stavamo qui. Passi. Che è successo? Come ho fatto a saltare? Allora, scusatemi, ma avevo saltato perché non mi sento, c'ho un tipo un po' mal di testa, scusate. Allora, quindi è saltata la pagina. Allora, scusate un attimo, adesso la ritrovo. Ok. Stavamo al maestro spirituale autentico, i milioni, questo abbiamo visto, il fuoco nella foresta. Ah, quindi si ripete. No, no, non abbiamo sbagliato niente, che questo si ripete. Però, allora, io direi di saltarlo questo, perché abbiamo parlato l'altra volta del maestro spirituale, che ci, appunto, tira fuori dalla foresta in fiamme, che sarebbe il mondo materiale. Qui c'è come una ripetizione, ma noi l'abbiamo già detto, ecco, non avevamo sbagliato niente, non ho sbagliato niente, che c'è un po' una ripetizione, io direi di andare avanti e vediamo un po' qualche altra cosa di nuovo, perché altrimenti ripetiamo sempre le stesse cose e vediamo un po'. Ecco, forse questo potrebbe essere interessante per noi, vediamo, Scusate, ma sai, lo sapete, è un happening, facciamo tutto così in diretta, quindi. Allora, questo mi pare interessante e dice, dato che io ho un problema, io personalmente con la mia mente, soprattutto in questi giorni, insomma, ogni volta sembra come se ho sempre dei fastidi, sento per esempio... come se mi batte una vena, mi sento tutta strana, infatti adesso sto un po' strana oggi, però voglio andare avanti con questa lettura, quindi mi scuserete, però ecco, vediamo un po', questo forse ci dà un po' di illuminazione, vediamo un po', ci aiuta un pochino, mi aiuta a me e anche a voi se volete, appunto, un po'. Ma mi sembra che è sfocato o mi sembra a me il video? Boh, mi sembra sfocato. Forse no. Non lo so. Ok, allora, prendiamo un po' di forza. Scusatemi, questo è un video un po' strano oggi, scusatemi, ma mi sento tutta un po' come se ho detto, cioè, tutte cose un po' così. Allora, vediamo che cosa ci dice qui, perché qui mi sembra interessante. Dice farsi amica la mente, ecco, questa mente, no? Questa mente che ci lancia un sacco di pensieri inutili, molto spesso sono inutili perché sono pensieri così o sciocchi, insulsi, oppure pensieri di negativi, pensieri di paura. Insomma, cerchiamo un po' di vedere che cosa ci dice Prabhupada per tenere questa mente un pochino più tranquilla, no? Dice infatti così il capitolo: farsi amica la mente. È la mente l'ultima riserva di risorse umane? O c'è una fonte più grande di conoscenza al di là della mente? Nella seguente conferenza, registrata a Los Angeles nel febbraio del 1969, Srila Prabhupada spiega perché la mente deve essere portata sotto il controllo dell'energia spirituale. Ecco. Il suo tema è fondato su un famoso verso tratto dal testo più diffusamente letto e rispettato in India, che è la Bhagavad Gita. Bandhur atmamanastasya ye atma ivat Tamana jitaha anatmanas tu shatrutve varte tatmaiva shatrutatvat. Per colui che l'ha dominata, la mente è la migliore amica, ma per colui che ha fallito nell'intento, la mente rimarrà la peggiore nemica. Bhagavad Gita 6.6. L'intero obiettivo del metodo dello yoga è di rendere la mente nostra amica. La mente a contatto con la materia è nostra nemica, proprio come la mente di una persona ubriaca. Nella Chaitanya Charitamrita, Madhya 20.117, è detto: Krishna buli se jiva anadi bahimurka ateva mayatare deya samsara duka. Avendo dimenticato Krishna da me da tempo immemorabile, l'essere vivente è rimasto attratto dall'aspetto esterno del Signore. Perciò l'energia illusoria Maya gli infligge ogni sorta di sofferenza in questa esistenza materiale. Io sono un'anima spirituale, particella del Signore Supremo, ma non appena la mia mente si contamina, mi ribello, perché non ho un po', perché ho un po' di indipendenza, ma perché dovrei servire Krishna Dio? Io sono Dio. Quando questa idea è dettata dalla mente, tutta la mia situazione cambia. Rimango soggiogato dalla falsa impressione, dalla falsa impressione, un'illusione, e tutta la mia vita è sprecata. Così noi cerchiamo di conquistare tante cose, imperi e altre cose, ma non riusciamo a conquistare la mente. Anche se conquistiamo un impero, abbiamo fallito. La nostra stessa mente sarà il nostro peggior nemico. È vero? Lo scopo della pratica dello yoga in 8 fasi è quello di conquistare la mente per renderla amica e portare avanti la missione della vita umana. Se la mente non è controllata, la pratica dello yoga è una semplice perdita di tempo, è solo un mettersi in mostra. Chi non riesce a controllare la mente vive sempre col suo peggior nemico e così la sua vita e la sua missione sono rovinate. La posizione costituzionale dell'essere vivente è di eseguire l'ordine del superiore. Finché la mente rimane un nemico incontrollato, si devono seguire gli ordini della lussuria, della collera, dell'avarizia, dell'illusione e così via. Ma quando la mente è controllata, una persona volontariamente vuole vivere secondo gli ordini di Dio, la persona suprema, che è situata nel cuore di tutti come anima suprema Paramatma, all'interno del cuore, e poi seguire le sue istruzioni. Per chi accetta direttamente la coscienza di Krishna, la sottomissione perfetta agli ordini del Signore segue automaticamente. L'uomo che ha conquistato la mente e ha trovato così la pace ha raggiunto l'anima suprema. Per lui la pace, per lui gioia, il dolore, il freddo, il caldo, l'onore e il disonore si equivalgono. Capite? Quindi l'uomo che, o la donna che ha conquistato la mente e ha trovato così la pace ha raggiunto l'anima suprema. Per lui la gioia, il dolore, il freddo, il caldo, l'onore e il disonore si equivalgono. Cioè, quindi si sente la differenza, perché ovviamente non è che uno diventa un automa, però stanno sullo stesso piano, perché vengono considerati appunto al di là, cioè al di qua, ma non al di là. Gioia, dolore, freddo, caldo, onore, disonore, si equivalgono. Bhagavad Gita, capitolo 6, verso 7. In verità ogni essere vivente è fatto per obbedire agli ordini di Dio, la persona suprema, che è presente nel cuore di ognuno come Paramatma. Quando la mente è fuorviata dall'energia esterna, si rimane coinvolti dalle attività materiali. Perciò, non appena la mente è controllata mediante uno dei metodi di yoga, a quel punto si può dire che si è giunti a destinazione. Si deve obbedire a ordini superiori. Quando la propria mente è fissa sulla natura superiore non si ha alternativa se non quella di seguire gli ordini del Supremo dall'interno. Quindi dall'interno, vedete? La mente deve accettare qualche ordine superiore e seguirlo. Grazie al controllo della mente automaticamente si seguono gli ordini dell'anima suprema, il Paramatma, poiché questa posizione trascendentale è raggiunta subito da chi è in coscienza di Krishna. Il devoto del Signore non è influenzato dalle dualità dell'esistenza materiale, gioia e dolore, freddo e caldo e così via. Questa è la condizione di Samadhi, ossia essere assorti nel Supremo. Gyana vigyana trittama Kutashto vijitendriyaha yukta iti uchate yogi samaloshtrasma kanchanaha. Si dice che una persona è situata nella realizzazione spirituale ed è chiamata yogi o mistico quando si sente pienamente soddisfatta grazie alla conoscenza e alle realizzazioni acquisite. Tale persona è situata nella trascendenza e possiede il controllo di sé. Vede ogni cosa, il sasso, la zolla di terra e l'oro con l'occhio equanime. Bhagavad Gita 6.8. La conoscenza dei libri senza la realizzazione della verità suprema è inutile. Nel Padma Purana è affermato quanto segue. Nessuno può capire la natura trascendentale del nome, della forma, delle qualità e dei divertimenti di Sri Krishna con i suoi sensi materiali contaminati. Solo quando una persona è spiritualmente satura di servizio trascendentale al Signore, allora il nome, la forma, le qualità e i divertimenti trascendentali del Signore gli sono rivelati. Questo è molto importante. Adesso noi accettiamo Krishna come il Signore Supremo. E perché consideriamo Krishna il Signore Supremo? Perché ciò è affermato nella letteratura vedica. La Brahma Samhita, per esempio, ci dice Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchitananda Vigraha. Il controllore supremo è Krishna. Egli ha un corpo spirituale eterno e pieno di felicità. Coloro che sono influenzati dalla passione e dall'ignoranza possono solo immaginare la forma di Dio. E quando sono confusi essi dicono, oh, non c'è nessun Dio personale, l'assoluto è un vuoto impersonale, ma questo porta alla frustrazione. In realtà Dio ha una forma, perché no? Il Vedanta Sutra afferma, Janmadi Ashayataha, la suprema verità assoluta è ciò, ossia colui da cui tutto emana. Noi abbiamo delle forme, e non solo noi, ma tutti gli esseri viventi hanno una forma. Da dove sono venute queste forme? Da dove hanno avuto origine tutte queste forme? Queste sono semplici domande sensate. Da dove sono venute tutte queste forme? Se Dio non è una persona, come mai i suoi figli sono diventati persone? Se mio padre non è una persona, come ho fatto io a diventare una persona? Se mio padre non ha una forma, da dove ho preso io la mia? Ciò nonostante, quando la gente è frustrata, quando vede che le forme corporee sono tutte fonte di guai, sviluppa un concetto opposto alla forma. Immagina che Dio debba essere senza forma, dato che la forma è il nostro corpo è causa di sofferenza, no? Giustamente. Ma la Brahma Samhita dice no, Dio ha una forma, ma la sua forma è eterna, non è come la nostra, è piena di conoscenza e di felicità. Quindi Sat significa eternità, Chit significa conoscenza e Ananda significa piacere. Così Dio ha una forma, ma la sua forma è piena di piacere, di conoscenza ed eternità. Sat Chit Ananda Vigraha. Ora paragoniamo il nostro corpo a quello di Dio. Il nostro corpo non è eterno, né è pieno di piacere né è pieno di conoscenza. La nostra forma chiaramente è diversa da quella di Dio, ma non appena pensiamo a una forma, pensiamo che quella forma debba essere uguale alla nostra, perciò pensiamo che Dio debba essere l'opposto di ciò che siamo noi. Egli deve essere privo di forma. Questa comunque è speculazione, non conoscenza. Come afferma il Padma Purana, non si possono capire il nome, la forma, le qualità e i beni di Dio con i sensi materiali. I nostri sensi sono imperfetti. Come possiamo dunque vedere la persona suprema? Non è possibile? E allora, com'è possibile vederlo? Se addestriamo i nostri sensi, se purifichiamo i nostri sensi, quei sensi purificati ci aiuteranno a vedere Dio. È come se avessimo la cataratta sui nostri occhi. Poiché i nostri occhi sono affetti dalla cataratta, non possiamo vedere nitidamente. Ma questo non significa che non ci sia niente da vedere, solo che noi non possiamo vedere. In modo analogo, adesso non riusciamo a concepire la forma di Dio, ma se le nostre cataratte vengono rimosse, possiamo vederlo. La Brahma Samhita dice, i devoti, i cui occhi sono unti col balsamo dell'amore per Dio, vedono Dio, Krishna, nel loro cuore per 24 ore al giorno. Dobbiamo purificare i nostri sensi. Allora saremo in grado di capire qual è la forma di Dio, qual è il suo nome, quali sono le qualità di Dio, com'è la dimora di Dio, i suoi beni, e saremo capaci di vedere Dio in ogni cosa. La letteratura vedica è piena di riferimenti riguardo alla forma di Dio. È detto, per esempio, che Dio non ha mani o gambe, ma che egli può accettare tutto ciò che gli viene offerto. È anche detto che Dio non ha occhi o orecchie, ma può vedere ed ascoltare ogni cosa. Queste sono apparenti contraddizioni, perché quando pensiamo a qualcuno che vede, pensiamo che debba avere occhi come i nostri. Questo è un concetto materiale. In realtà comunque Dio ha occhi, ma i suoi occhi sono differenti dai nostri. Egli può vedere anche nell'oscurità mentre noi non possiamo. Dio può anche sentire. Dio è nel suo regno, che è milioni e milioni di miglia lontano da qui, ma se noi sussurriamo qualcosa, una cospirazione, egli può sentire tutto perché è seduto qui in mezzo a noi. Oh. Perciò non possiamo evitare che Dio veda, che Dio senta e che Dio tocchi. Questo è anche Dio, vedete, qui è Dio bambino. Nella Bhagavad Gita Shri Krishna dice: se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto dell'acqua, accetterò la sua offerta. Ora, ma come fa a mangiarla? Non possiamo vederlo mangiare, però la sta mangiando. Noi non abbiamo questa esperienza quotidianamente. Quando offriamo il cibo a Krishna, seguendo il metodo rituale prescritto, possiamo constatare che il cibo offerto a Krishna cambia subito. Questo è pratico, così Dio mangia, ma poiché è soddisfatto in se stesso, non mangia come noi. Se qualcuno mi offre un piatto di cibo, io potrei mangiare tutto, ma Dio non ha fame. Così quando mangia, lascia le cose così come sono. Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. Dio è così completo che può mangiare tutto il cibo che noi gli offriamo e tuttavia rimanere lo stesso. Egli può mangiare con i suoi occhi. Ciò è affermato nella Brahma Samhita. Ogni parte del corpo del Signore ha tutte le potenze delle altre parti. Noi per esempio possiamo vedere con gli occhi ma non possiamo mangiare con gli occhi. Dio invece, anche solo guardando il cibo che noi gli abbiamo offerto, lo mangia. Naturalmente queste sono cose che non possono essere comprese in questo momento attuale, perciò il Padma Purana afferma che solo quando una persona è satura di servizio trascendentale al Signore, il nome, la forma, la qualità e i divertimenti trascendentali del Signore, gli sono rivelati. Noi passiamo a capire Dio con i nostri sforzi, ma Dio può rivelarsi a noi. Cercare di vedere Dio con i nostri sforzi è come cercare di vedere il sole quando è notte. Capite? Quindi cercare di vedere Dio con i nostri sforzi è come cercare di vedere il sole quando è notte. Se qualcuno dice: oh, io ho una pila molto forte, troverò il sole. Non lo vedremo ugualmente. Quando il sole sorge spontaneamente al mattino, allora lo vedremo. Ma non possiamo vedere Dio con i nostri sforzi perché i nostri sensi sono imperfetti. Dobbiamo purificare i nostri sensi e aspettare che arrivi il momento in cui Dio sarà compiaciuto di rivelarsi a noi. Il processo è questo. Ecco, questo è il metodo della coscienza di Krishna. Non possiamo pretendere: oh mio caro Dio, mio caro Krishna, presentati davanti a me, voglio vederti. No, Dio non è il nostro servitore, il nostro fornitore. Quando egli sarà soddisfatto di noi, lo vedremo. Perciò il nostro metodo di yoga consiste nel cercare di soddisfare Dio, in modo che egli si riveli a noi. Questo è il vero metodo di yoga. Senza questo metodo la gente accetta tanti dei insensati. Poiché la gente non può vedere Dio, chiunque dica io sono Dio è accettato. Nessuno sa chi è Dio. Qualcuno può dire io sto cercando la verità, ma deve sapere che cos'è la verità, altrimenti com'è possibile cercare la verità? Supponiamo che voglia acquistare dell'oro. Devo sapere che cosa è l'oro, o perlomeno deve avere una certa esperienza al riguardo, altrimenti sarò ingannato. Così le persone restano imbrogliate. Accettano tanti mascalzoni come Dio, perché la gente non sa chi è Dio. Chiunque può farsi avanti e dire io sono Dio e qualche mascalzone lo accetterà come Dio. L'uomo che dice io sono Dio è un mascalzone e anche l'uomo che lo accetta come Dio è un mascalzone. Dio non può essere conosciuto in questo modo. Bisogna qualificarsi per essere Dio, per capire Dio. Questa è la coscienza di Krishna. Se ci impegniamo al servizio del Signore, allora ci qualificheremo per poterlo vedere, altrimenti non è possibile. Quindi, Krishna è una persona, egli è la persona suprema. Questa è l'ingiunzione vedica. Nityo Nityanam Chetanash Chetananam. Siamo tutti persone eterne e Dio è l'eterna persona suprema. Attualmente dobbiamo affrontare la nascita e la morte perché siamo ingabbiati all'interno di questo corpo. Ma in verità, essendo anime spirituali eterne, non siamo soggetti né alla nascita né alla morte. Secondo la nostra attività e secondo il nostro desiderio, trasmigriamo da un corpo all'altro, da un altro ancora, un altro ancora. Però, in effetti, non dobbiamo né nascere né morire, come è spiegato nella Bhagavad Gita. L'essere vivente non nasce né muore. Similmente anche Dio è eterno. Fra tutti gli esseri viventi, Dio è l'essere vivente supremo e fra le persone eterne, egli è l'eterna persona suprema. Perciò, praticando la coscienza di Krishna, purificando i nostri sensi, possiamo ristabilire la nostra relazione eterna con l'eterna persona suprema, la completa persona eterna. Allora vedremo Dio. Grazie alla conoscenza realizzata si diventa perfetti. Mediante la conoscenza trascendentale è possibile rimanere fissi nelle proprie convinzioni, ma con una semplice conoscenza accademica può capitare di rimanere facilmente delusi e confusi da apparenti contraddizioni. È l'anima realizzata che può veramente autocontrollarsi, essendo abbandonata a Krishna. Inoltre, tale persona è trascendentale, perché non ha niente a che fare con l'erudizione mondana e considera l'erudizione mondana e la speculazione mentale, che per altri hanno lo stesso valore dell'oro, allo stesso livello di pietruzze e sassi. Anche se una persona è analfabeta, perfino se non conosce l'ABC, può realizzare Dio, a patto che si impegni con sottomissione nel servizio d'amore trascendentale al Signore. D'altra parte, anche siamo grandi eruditi, possiamo essere in grado di realizzare Dio. Dio non è soggetto ad alcuna condizione materiale, perché egli è lo Spirito Supremo. Analogamente, il metodo di realizzazione di Dio non è soggetto ad alcuna condizione materiale. Non è vero che un povero uomo non può realizzare Dio o che una persona molto ricca realizzerà Dio. No, Dio è al di là delle nostre considerazioni materiali. Questa è la cosa stupenda di questa filosofia qui. Dio è al di là delle nostre considerazioni materiali. Qui la sentiamo pienamente. Questa cosa nella coscienza di Krishna si sente pienamente che Dio è al di là. La religione migliore è quella che ci aiuta ad avanzare nel servizio devozionale nell'amore per Dio. Lo Srimad Bhagavatam non dice che la religione di prima categoria è quella indù o quella cristiana o musulmana o qualunque altra religione. Il Bhagavatam, che è lo Srimad Bhagavatam, dice che la migliore religione è quella che ci aiuta ad avanzare nel servizio devozionale e nell'amore per Dio, che consiste nel fare qualche cosa per Dio. Tutto qui, questa è la definizione di una religione di prima categoria. Noi non diciamo che una religione è ottima e un'altra è pessima. Naturalmente esistono tre influenze nel mondo materiale: virtù, passione e ignoranza, e i concetti religiosi sono creati secondo queste qualità. Ma lo scopo della religione è di capire Dio e di imparare ad amare Dio. Qualsiasi metodo religioso, se insegna ad amare Dio, è di prima qualità, altrimenti è inutile. Una persona può aderire ai suoi principi religiosi molto rigidamente e molto bene, ma se il suo amore per Dio è nullo e il suo amore per la materia cresce, la sua religione non è religiosa. Ecco, questo potrebbe essere, diciamo, un bel test, no? Vedere come stiamo noi, in che posizione stiamo. Lo possiamo capire da questa ultima frase di Prabhupada, cioè vedere quanto è il nostro amore per Krishna, no? Noi pensiamo di amare Dio, però per capire se amiamo Dio dobbiamo valutare quanto amore per le cose materiali ancora abbiamo. Quello secondo me è un buon test. Ovviamente meno amore abbiamo per le cose materiali e forse stiamo sviluppando più amore per Dio, no? Nello stesso verso il Bhagavatam afferma che la vera religione deve essere aha tu ki apratihata, libera da motivazioni personali e da impedimenti. Se noi possiamo trovare un metodo di principi religiosi come questo, scopriremo che siamo felici in ogni senso, altrimenti non esiste possibilità di essere felici. Se vai, uno dei nomi di Dio è Adokshaja. Adokshaja significa colui che conquista tutti i tentativi materiali di essere visto. Akshaja significa percezione diretta mediante la conoscenza sperimentale. Adaha significa irraggiungibile. Noi possiamo capire Dio, non lo possiamo capire con la conoscenza sperimentale, no. Dobbiamo apprendere ciò che lo riguarda in un altro modo, con un ascolto sottomesso del suono trascendentale e rendendo un servizio d'amore trascendentale, allora possiamo capire Dio. Perciò un principio religioso è perfetto se ci insegna come sviluppare il nostro amore per Dio, ma il nostro amore deve essere libero da motivazioni egoistiche. Se io dico io amo Dio perché mi concede delle cose molto belle per la mia gratificazione dei sensi, questo non è amore. Il vero amore è libero da motivazioni personali. Dobbiamo limitarci a pensare Dio è grande, Dio è mio padre, è mio dovere amarlo, tutto qui. Niente scambi. Oh, Dio mi dà il pane quotidiano, perciò lo amo. No, Dio dà il pane quotidiano anche agli animali, ai gatti e ai cani. Dio è il padre di tutti e provvede al mantenimento di tutti. Perciò apprezzate Dio perché mi dà il pane, non è amore. Amore senza motivazione. Devo pensare, perfino se Dio non provvedesse al mio pane quotidiano, lo amerò comunque. Questo è vero amore. Come dice Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Signore, puoi abbracciarmi e puoi schiacciarmi sotto i tuoi piedi, puoi non venire mai davanti a me, anche se non facendoti vedere mi spezzerai il cuore, tuttavia io ti amerò. Questo è puro amore per Dio. Quando arriviamo a questo stadio di amore per Dio, allora ci scopriremo colmi di piacere, proprio come Dio è pieno di piacere, così anche noi saremo pieni di piacere. Ecco qua, abbiamo finito anche quest'altra conferenza, cari e carissimi nel Signore, scusatemi se questo video è stato un po' non al pieno delle mie forze, perché a parte non amo girare i video la sera, i miei video li faccio sempre la mattina, ma oggi nonostante tutto fosse sera, anche tarda perché dovrebbero essere ormai quasi le 8, non lo so, le 7, boh, scusate, sono le 7 e mezzo, le 19:30, l'ho fatto comunque perché voglio andare avanti nella lettura, perché ho tante cose da leggere, insomma abbiamo iniziato con questo, ma voglio leggere tante altre cose, poi ci sono anche tanti altri maestri, insomma. Prabhupada è uno dei più, diciamo, importanti, ma insomma ce ne stanno tanti, uno dei più famosi, più popolari, ma comunque ci sono molti maestri di questa linea Gaudiya Vaishnava, e quindi voglio andare avanti perché voglio dare voce anche agli altri. E quindi per ora vi saluto, cari e carissime nel Signore, e spero di rivederci presto. Arrivederci. State ascoltando Radio Isvara.